Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. La curiosità è l'antecamera della sbeggetudine. Recita un vecchio adagio siciliano: a megghiu parola e chidda ca non si dice. La miglior parola è quella che non si dice. Una massima che rispecchia l'anima della Sicilia, le luci e le ombre di quell'isola plurale dove le cose non hanno mai un solo significato. E non a caso proprio questo proverbio, insieme ad un pensiero di Leonardo Sciascia, introduce al libro di Giovanni Falcone, voluto per raccontare l'anima degenere dell'isola, la mafia. Cose di Cosa Nostra, scritto con la giornalista francese Marcel Padovani, è uno dei pilastri della conoscenza delle organizzazioni criminali. E in questa puntata di Storiacce noi vi portiamo nella piazza di Lamezia Terme, dove a fine giugno, durante il Festival Trame, c'erano migliaia di persone ad ascoltare le parole dell'antimafia, lì nella terra dell'Andrangheta. E c'era anche Storiacce di Radio 24, che per più puntate vi farà ascoltare estratti dei dibattiti. Il primo è proprio quello con Marcel Padovani e Gianni Melillo, procuratore aggiunto di Napoli. Io l'ho conosciuto nell'84, al momento delle confessioni di Buscetta, e nel 91, quando lui mi annuncia che lascia Palermo, era il 13 febbraio 91, me lo ricordo benissimo, e ci siamo ritrovati, e lì ho avuto un'illuminazione. Ho pensato, in questo momento di passaggio di consegne, è il momento per lui di fare un bilancio. Direi che l'hai sicuramente convinto, visto che non solo siete arrivati al libro, ma siete arrivati anche ad un libro in cui Giovanni Falcone mette tutto quello che lui riteneva che in quel momento fosse opportuno, diciamo, far conoscere sulla mafia. Adesso ce lo racconterai, ma anche il dottor Melillo ha conosciuto Giovanni Falcone, e lo ha conosciuto in un altro momento della sua carriera e della sua vita. Com'è andata? Questa è veramente la materia a quale applicare il vecchio detto siciliano che la migliore parola è quella che non va detta, anche perché poi gli amici di Giovanni Falcone si sono improvvisamente moltiplicati dopo la morte di Giovanni. Io ricordo un clima di caccia all'uomo, linciaggio, vale a dire l'attribuzione a Giovanni di ogni possibile idea deviante rispetto al tradizionale assetto anche deontologico della magistratura. Collabora con la politica, persegue fini personali, non garantisce la trasparenza. È esattamente il contrario. Io ho lavorato nell'istituzione che Giovanni Falcone ha voluto, che quasi sicuramente non avrebbe mai diretto. Alcuni dicono che Giovanni sia stato ucciso da una Cosa Nostra preoccupata l'idea che Giovanni potesse diventare procuratore nazionale antimafia. Marcel, come ricordavi, la prima volta lo hai incontrato quando era arrivato a quello che forse è stato uno dei passaggi chiave della conoscenza di Cosa Nostra, ossia le rivelazioni di Tommaso Buscetta, che possiamo dire hanno dato a Giovanni Falcone le chiavi per entrare dentro Cosa Nostra. Buscetta, per Falcone, come lui ha detto, ci ha insegnato a parlare la lingua in un paese in cui non la si parlava. Conferma più che rivelare Buscetta. Lo conferma con l'autorevolezza di un grande capo e dall'interno dell'organizzazione. E tra l'altro, nonostante questo, Falcone non ha mai dato retta a Buscetta, ogni sua affermazione è stata verificata, controllata. Io mi ricordo che mandò a San Paolo in Brasile un investigatore a verificare che tale piazza di San Paolo che citava Buscetta era esattamente fatta in quel modo, con tanti banchi, non per la piazza in sé, ma per vedere se Buscetta aveva una credibilità nelle sue affermazioni. Poi credo che un'amicizia sia nata fra i due, un'amicizia anche disperata, perché si sentivano l'uno l'altro dei condannati a morte. Buscetta, tra l'altro, lo diceva Falcone: Cosa Nostra non dimentica. E anche per questo rapporto con Buscetta, per questa sintonia che si era creata tra i due, per cui Buscetta parlava con Falcone. Di tutto quello che lui conosceva, lo stesso Falcone fu aspramente attaccato e ci furono tanti veleni anche su questo. Ma per capire che cosa voleva dire per Cosa Nostra, quanto Buscetta stava consegnando a Falcone, io ricordo che a Corleone, forse un fratello di Totò Riina, disse che Buscetta aveva girato il mondo e gli era saltato il cervello, come a dire è andato fuori da tutti gli schemi immaginabili di Cosa Nostra. Di tutto questo Giovanni Falcone era assolutamente consapevole, quindi lui ti raccontava nei vostri incontri, che sono avvenuti anche in condizioni non facili, delle sue sensazioni rispetto alla possibilità che altri potessero seguire l'esempio di Buscetta, quindi cominciare a parlare? Lui era convinto che era una scintilla che era partita e che altre ce ne sarebbero state. Dunque l'ho conosciuto nel novembre dell'84, mi ha dato appuntamento alle 19 a Palazzo di Giustizia a Palermo. Passo tutti i controlli, come ben sappiamo. Lui mi apre la porta e mi dice: mi dispiace, ma non possiamo vederci perché devo andare immediatamente a Luciardone per un interrogatorio. Io suggerisco: ma possiamo cenare insieme? E lui mi dice: non è molto igienico. Poi, vedendo sulla mia faccia la mia delusione, mi dice: ma possiamo fare una cosa? Domani mattina alle 7 c'è un aereo per Roma, possiamo prenderlo assieme e chiacchierare in aereo. Saliamo sull'aereo e ci troviamo seduti accanto a Marco Pannella, il quale tornava da una specie di tournée che aveva fatto in Sicilia, dove aveva dato la tessera del Partito Radicale a Michele Greco. Dunque non abbiamo parlato neanche in aereo, e Falcone mi dice alla fine: guardi, torni a casa sua, la farò chiamare in mattinata. Io non ci credevo assolutamente. Invece alle 12 mi chiama un ufficiale della Guardia di Finanza e mi dice: la persona che lei vuole vedere è disponibile, la passo a prendere. Mi ha fatto fare un giro in Roma, poi mi ha portato in una caserma, una porta si è aperta, c'era un caminetto acceso, un tavolo imbandito e Giovanni Falcone. Dottor Melillo, parlavamo dei pentiti. Ritrova che nella gestione dei collaboratori di giustizia l'indicazione di Falcone sia tuttora rispettata oppure è stata nel tempo, diciamo, tradita? Direi che complessivamente il panorama non è oltremodo rassicurante. D'altra parte è anche vero che di questo strumento così delicato e così importante non è facile fare uso, e probabilmente non è stato fatto sempre il miglior uso, come dimostra il fatto che anche la fama della generalità dei cittadini verso questo strumento si è affievolita nel tempo, talmente affievolita che quando è stata modificata la legislazione voluta da Giovanni Falcone si è arrivati a fissare dei limiti che sono francamente difficili da accettare logicamente. Potrei raccontare per esempio che dalle parti di Napoli, un paese che si chiama Castellammare di Stabia, addirittura qualche anno fa si era formato addirittura un clan di pentiti, nel senso aveva una serie di criminali, camorristi che poi si erano tutti pentiti e che dopo aver esaurito la loro collaborazione avevano costituito, come dire, una propria organizzazione. Oggi avrebbero fatto forse un gruppo su Facebook. Tanti ne aveva conosciuti, tantissimi ne aveva conosciuti Giovanni Falcone, un boss come Antonino Calderone, ad esempio, che gli aveva detto più volte che le cose in Cosa Nostra non hanno mai un solo significato. E questo Giovanni Falcone lo sapeva benissimo, perché lui era figlio di quella stessa terra, di quella stessa isola plurale che è la Sicilia, e quindi sapeva anche cogliere i messaggi che dietro le singole parole o dietro anche singole espressioni, come chiamare una persona signore, potevano voler dire. Dunque molto basata sull'osservazione, sulla memoria, sul dettaglio, l'importanza del dettaglio è decisiva. Falcone era maestro nell'arte di capire questi piccoli segnali, questi silenzi, di interpretarli. E con questi pentiti, che erano a un momento difficile, cruciale della loro storia, credo che la comunicazione sia stata molto intensa, non solo sui contenuti, ma anche sulle modalità. E diceva sempre, fra loro e me c'è un tavolo, e questo tavolo è lo Stato. Le tue parole mi fanno venire in mente quello che lui stesso diceva, rifacendosi a Sciascia e rifacendosi ad uno scetticismo che avevano in comune, anche se di matrice diversa. Era in questa legge che continuava a trovare la ragione di questo barlume di ottimismo, eppure il momento in cui tu lo hai incontrato è stato un momento in cui lui era un magistrato ma anche un uomo molto solo. Il rapporto con Sciascia fu un rapporto difficile, ci fu anche un momento di crisi forte fra loro quando Giovanni Falcone seppe che Sciascia aveva incontrato a Racalmuto e passeggiato con un certo Macaluso, che era un amico di Sindona, uno che aveva accompagnato Sindona nella sua fuga. E un giorno convoca Leonardo Sciascia in procura a Palermo e gli chiede: signor Sciascia, mi dica qualcosa su questo vostro incontro di Racalmuto. E Sciascia gli risponde: ma non mi ricordo. E dopo Falcone mi dice: ma a quel momento lì avrei potuto dirgli che mi colpavo per reticenza. Non lo ha fatto, per fortuna. Col passare del tempo i due personaggi si siano riavvicinati nell'intelligenza dell'isola, non sullo Stato. Che sullo Stato Sciascia è sempre rimasto quello che diceva, né con le biere né con lo Stato. Falcone diceva sempre con lo Stato. Il riferimento alle BR mi fa venire in mente quello che prima di questo incontro con il dottor Melillo anche dicevamo. Sono andato a ritrovare il testo del comunicato con il quale Prima Linea rivendicava l'omicidio di un giudice istruttore di Milano, Guido Galli, per me molto vicino a Giovanni Falcone. Oggi 19 marzo 1980, recita questo lugubre comunicato, un gruppo di fuoco ha giustiziato con 3 colpi il giudice Guido Galli. Galli appartiene alla frazione riformista e garantista della magistratura. Guido Galli aveva a Milano avviato lo stesso lavoro che poi Giovanni Falcone qualche anno dopo aveva riprodotto e affinato sul terreno del contrasto alla mafia. Il nostro lavoro consiste nel maneggiare informazioni, quindi saperle accumulare, saperle elaborare, saperle scambiare. Se io do un mio libro a Raffaella e Raffaella mi dà il suo, al termine dello scambio ciascuno di noi ha sempre un libro, ma se scambiamo un'informazione, al termine di uno scambio ciascuno di noi ha almeno raddoppiato il numero delle informazioni originarie. Giovanni Falcone ha fatto questo, ha costruito un metodo di lavoro persino sfidando alcuni privilegi della magistratura. Io credo che ci sia un'analogia anche nelle ragioni per le quali Prima Linea a Milano e Cosa Nostra a Capaci hanno ucciso i due colleghi. Quella della creazione anche del famoso pool di magistrati e non soltanto dare, potremmo dire, in pasto alle cosche un unico magistrato come obiettivo, come simbolo. La conseguenza di questa riflessione era anche la sicurezza che Giovanni Falcone voleva per sé e per tutti gli altri magistrati. Ed infatti i vostri incontri sono stati incontri che sono passati attraverso quante porte blindate c'erano a Palermo? Io ne ho passate 3 e l'ultima era controllata da lui con una cinepresa e lui apriva solo a chi conosceva. E le precauzioni, per esempio, quando abbiamo fatto questo libro è fatto di una ventina di conversazioni che in realtà erano una ventina di pranzi, perché ci vedevamo a ora di pranzo, lui mangiava molto volentieri, beveva molto volentieri, parlava molto volentieri, e questi pranzi dove lui si metteva sempre in fondo al ristorante per poter controllare chi entrava. Io mi ricordo che quando finivo questi pranzi avevo il braccio che mi faceva male. Un'attenzione verso la sicurezza così forte che porta te anche a nutrire dei dubbi su che cosa non abbia anche funzionato il giorno della strage di Capaci. Lui andava a vedere questa mattanza a Favignana, e la moglie doveva essere trasferita a Roma, dunque era una specie di viaggio di addio. E lui, come sappiamo, come ci ha raccontato dopo l'autista, era un po' leggero anche nella guida, ha chiesto di guidare lui la macchina, ha tolto a un certo momento le chiavi. Se fosse stato molto più prudente, forse non sarebbe tornato per il ritorno sulla terra di Sicilia con quello che era successo. Ricordatevi che la Cassazione aveva appena validato la legittimità delle condanne del maxi processo. Salvo Lima era stato assassinato, e quando Salvo Lima è stato assassinato, Falcone mi disse: questo sì che è un brutto segnale. Restano i tanti forse che sono ormai consegnati alla storia. Al dottor Melillo, io in realtà volevo chiedere un'altra riflessione su quanto Marcella stava dicendo a proposito della convinzione di Giovanni Falcone della necessità di un lavoro di gruppo. Il pool c'è stato a Palermo, poi in alcuni momenti storici ben precisi, ma si ha l'impressione che poi da un certo punto in poi abbia prevalso una linea individualistica. Duole dirlo, ma tutt'oggi vi sono uffici giudiziari che contestano la potestà, cioè il diritto ma anche il dovere del procuratore nazionale antimafia di acquisire la copia degli atti di indagine per poter svolgere il suo proprio ruolo. Io sono molto colpita perché c'è un'inflazione di amici di Giovanni Falcone, e nell'ultima parte della sua vita lui non aveva un amico, non poteva fidarsi di nessuno, era la persona più isolata e più odiata. E allora mi fa pena questa corsa alla foto di Giovanni Falcone dietro alla scrivania. La solitudine di Giovanni Falcone traspare in ogni parola. Forse va bene anche ricordare che dopo la sua morte ci furono anche magistrati come Ilda Boccassini, ebbe parole molto dure nei confronti dei suoi colleghi in un'assemblea dell'Associazione Nazionale Magistrati quando disse loro: l'avete ammazzato anche voi. Chiudendo, volevo chiedere a Marcel di raccontare la storia della sua penna. La devo prendere? Come vuoi. Ho una penna che mi fu offerta nell'87 da François Mitterrand, presidente della Repubblica francese. E un giorno, pranzando con Giovanni Falcone, vede questa penna, e lui, che era amatore molto di penne, mi la guardava. Alla fine gli ho detto: ma la vuoi? E lui mi dice: sì. Allora gli do la penna dicendogli: viene da Mitterrand, eccetera. E poi, triste fine, quando è morto, Maria Falcone, la sorella, mi ha detto: vuoi prendere qualcosa dell'eredità di Giovanni? Allora ho ripreso la penna. Anche per questo Marcel è la persona che più di tutti può raccontarci Giovanni Falcone. Sul blog di Storiacce troverete anche le foto dei dibattiti di Lamezia. Per riascoltare invece questa come tutte le altre puntate, www.radio24.it nella sezione podcast, oppure direttamente su iTunes. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul nostro audioblog, appunto. Ciao a tutti, a sabato!